Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata e benvenuti a Magazine 24, appuntamento come sapete due volte alla settimana, il sabato e la domenica, per leggere insieme, per avere qualche consiglio di lettura sui magazine, sui settimanali, sui mensili italiani e stranieri. Come spesso ci capita, notiamo degli argomenti ricorrenti, Anita Panizza ed io, nel preparare il programma. Questa volta un argomento ricorrente è un po' l'esito del referendum di Mirafiori. L'esito, come sapete, del referendum di Mirafiori, che si è concluso con l'accoglienza, anche se non con una maggioranza molto consistente, alle proposte fatte da Fiat e quindi con invece il rifiuto della posizione più di negazione di queste proposte che veniva invece dalla FIOM. Della questione si occupano in diversi. Famiglia Cristiana, tanto per darvi un'indicazione, dedica a Mirafiori proprio la sua copertina, che parla di La lezione di Mirafiori, con un significativo titolo, Il posto a ogni costo. E poi, appunto, andando a leggere all'interno l'articolo che sostiene la copertina, il discorso che più o meno si svolge all'interno di Famiglia Cristiana è: si è trattato anche di un sacrificio, ma alla fine ha vinto il mutuo. Questo anche il modo che scelgono di titolare, per dire una sorta di pragmatismo obbligato da questi tempi non certo semplici dal punto di vista dell'economia. Troviamo un contributo sulla materia del referendum di Mirafiori anche su Vanity Fair, quindi come vedete l'attenzione per questo voto è andata ben al di là delle abituali testate che si occupano di materie economiche. E si occupa Vanity Fair di Mirafiori nella sua rubrica affidata a Pagnoncelli. Come sapete, tutte le settimane Vanity Fair presenta un sondaggio e questa volta sceglie di collocare il sondaggio proprio all'interno di una serie di pagine intitolate a Marchionne, alla decisione di Marchionne, alla decisione dei lavoratori, e il sondaggio a cura di Ipsos, che come testata ha sempre il Vox Populi, è andato a chiedere a un campione significativo della popolazione italiana come giudica l'esito del voto di Mirafiori. Il titolo è già significativo, dice: il referendum divide anche gli italiani. Spiegazione: la maggioranza del paese considera gli accordi di Marchionne necessari, ma oltre il 40%, siamo vicini, diciamo, anche all'esito proprio del voto nella fabbrica di Mirafiori, boccia l'amministratore delegato Fiat. Vediamo più in dettaglio perché. Ricorda Pagnoncelli nel suo esordio: al referendum di Mirafiori, 13-14 gennaio, il fronte del sì ha vinto con il 54,05 dei voti contro un 45,95 di no e con 59 schede bianche. Insomma, i lavoratori hanno approvato gli accordi proposti dalla dirigenza. Anche tra gli italiani prevale un giudizio positivo, ma con distinguo importanti. Un intervistato su quattro, infatti, ritiene il piano Fiat un buon compromesso tra lavoratori e aziende, il migliore nelle condizioni attuali. Per il 37% è penalizzante per i lavoratori e tuttavia è inevitabile per evitare la chiusura dello stabilimento torinese. E poi c'è un 16% invece che giudica questo tipo di proposta, appunto, della dirigenza inaccettabile. Molto elevato poi anche il numero di intervistati, si tratta di 1 su 5, che non prende posizione oppure dichiara di non essere sufficientemente informato sull'argomento per esprimersi. Quindi anche la materia del contendere diciamo non è stata immediatamente percepita, non era così facilmente percepibile. E poi è stato chiesto naturalmente di prendere una posizione su questa dichiarazione di Marchionne. L'amministratore legato della Fiat, Sergio Marchionne, sostiene che per consentire a un'azienda di sopravvivere nel mondo globalizzato di oggi bisogna rinunciare ad alcune garanzie sul lavoro. Lei è d'accordo? Questa è stata la domanda. È stato risposto sì per il 54% dei casi. Noterete che è esattamente la percentuale con cui i sì hanno vinto a Mirafiori. Anche qui potreste rinunciare, è stato chiesto sostanzialmente, a qualche garanzia, però almeno abbiamo la sicurezza di mantenere il posto, sì per il 54% di nuovo. Questo 54% È stato poi si va poi a sommare con delle altre percentuali. Alcuni hanno detto sì, l'unico modo per aumentare la nostra competitività, altri però invece hanno segnalato beh, però non vanno toccati alcuni diritti fondamentali dei lavoratori, come ad esempio il diritto di sciopero. Poi hanno chiesto infine, c'è stata una terza domanda, qual è la valutazione dell'operato proprio di Sergio Marchionne come amministratore delegato della FIA. Il giudizio è positivo nel 44% dei casi, per il 40% è negativo, il 16% ha deciso di non rispondere, si è astenuto da ogni commento. Anche qui difficile valutare appunto la bontà dell'operato basandosi magari su quello che si può normalmente leggere, normalmente trovare sui giornali, a meno che non ci sia un interesse specifico per andare ad approfondire la materia. Restiamo in qualche modo in tema di globalizzazione, perché su Newsweek questa settimana c'è una bellissima provocazione firmata da John McWhorter. John McWhorter è un docente alla Columbia University e poi scrive anche per altre testate americane. Il titolo è "L'inglese è qui e qui resterà". Il senso è questo, e potremmo anche agganciarci alla domanda che è stata rivolta appunto su Vanity Fair: ma in un mondo globalizzato e sapendo che la Cina oramai è la seconda economia mondiale, dobbiamo metterci a studiare il cinese? Ovviamente magari la richiesta può essere più indicata per i più giovani, che dovranno lavorare per molti anni con questa prevalenza cinese. Beh, la risposta di John McWhorter è no, non è assolutamente necessario, perché l'inglese come lingua del lavoro, come lingua appunto del mondo globalizzato, ha più di una ragione per resistere e di sostanzialmente affiancarsi al cinese, continuare ad accompagnare anche la crescita cinese, così come ha accompagnato la crescita di altre economie in questi anni. Parte proprio da una considerazione contraria per poterla poi smontare, e dice la Cina è tra l'economia guida, l'economia che sta crescendo di più, quindi avrà sicuramente un'influenza sempre maggiore sull'educazione, sul potere, e quindi dovremmo imparare il cinese mandarino. Giusto? Sbagliato, risponde, perché la lingua che di fatto sarà quella degli scambi internazionali continuerà ad essere l'inglese. Non è detto, tra l'altro, storicamente, che la lingua della nazione, diciamo, dominante debba proprio poi essere la lingua di tutti, e porta anche degli esempi storici. Ad esempio, dice, Gengis Khan ha conquistato la Cina, però non ha avuto nessun interesse a, come dire, sovrapporre la sua lingua a quella parlata dai cinesi. Quando Alessandro il Grande è arrivato fino alla Persia, nessuno ha comunque pensato che il greco dell'epoca sarebbe diventato la lingua leader. Ora è evidente che questi esempi possono risentire delle mutatissime condizioni storiche di contorno, ma McWhorter prosegue il suo ragionamento mostrando alcuni dei motivi per i quali l'inglese continuerà a restare la lingua degli scambi. Innanzitutto c'è il fenomeno che qualche volta abbiamo già ascoltato, quello del globish, cioè in realtà molti di noi non parlano in realtà inglese, parlano una sorta di lingua comune basata su qualche migliaio di vocaboli che serve più che altro per farsi capire. Non è esattamente un inglese, ma appunto un globish, un inglese globale che è proprio a fini commerciali, a fini di sopravvivenza comunicativa. Ma poi ci sono, secondo lui, anche altri motivi. I miglioramenti tecnologici sono stati fin qui guidati da una grande diffusione anche della lingua inglese. La lingua inglese continua ad essere quella preferita nei contatti tra i ricercatori, tra gli studiosi, e questo è un altro motivo per cui si può assicurare una sopravvivenza. E infine la difficoltà della lingua cinese, perché ricorda lui, secondo proprio dei testimoni occidentali che si sono sforzati di impararla, ci vogliono almeno un paio d'anni per poter seguire in modo, dice lui, appena decente una conversazione, e questo certamente non depone a favore di una lingua che vuole essere una lingua mondiale, una lingua adatta agli scambi mondiali. E poi c'è naturalmente la relativa facilità della grammatica, delle costruzioni della lingua inglese che, come sappiamo, sono molto più elementari e consentono, anche con un numero molto limitato di vocaboli e di regole grammaticali, comunque di farsi capire dai propri interlocutori. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Parlavamo di lingua, di linguaggi. Secondo appunto un autorevole intervento ospitato da Newsweek questa settimana, l'inglese non è destinato a essere soppiantato dal cinese come lingua globale, anzi avrebbe molte caratteristiche adatte a restare la lingua globale. Ormai è di fatto la lingua più utilizzata anche ad esempio tra gli scambi, tra gli studiosi, tra i ricercatori, e questo può assicurare all'inglese un futuro ancora lungo come lingua di riferimento per tutto il mondo. Queste vicende linguistiche in qualche modo si intrecciano con una cosa che sta sul Novello Observatore di questa settimana, si intrecciano anche quasi curiosamente, perché sappiamo che i francesi sono molto gelosi della loro lingua, hanno anche l'abitudine di tradurre in francese termini di altre lingue, specialmente i termini inglese, per non dover in qualche modo subire l'importazione di vocaboli non francesi. Bene, il Nouvel Observateur fa un paio di pagine, tre pagine, così quasi di divertimento verrebbe da dire, intitolate Parlate 2011, nel senso parlate un francese adatto ai tempi di adesso o invece utilizzate delle parole che ormai sono passate di moda. È un tipo di esercizio che si fa parecchio sui magazine, lo trovate sicuramente sulle riviste, si celebrano magari alcune parole che prima non esistevano e poi diventano improvvisamente famose mentre altre vengono dimenticate. Perché ve lo segnalo? Perché al di là delle sfumature della lingua francese, che rimangono forse un po' più confinate a chi è in grado di esprimersi molto bene in francese, però compaiono qua e là delle parole anche in inglese. Ad esempio segnalano, forse anche con qualche rammarico, che anyway ormai è un termine utilizzato dai giovani, dai ragazzi, quando parlano per cambiare soggetto. Anyway è l'inglese in inglese comunque, e appunto il fatto che compaia in un dizionario di francese moderno, in questa sorta di micro dizionario di francese moderno, già fa pensare. E poi dovrebbero importare, almeno stando a questa segnalazione di Nouvel Observateur, anche Wikileaks, e quindi anche qua Wikileaks, che diventa un termine di uso comune, e ohimè tocca importarlo anche qui dall'inglese. Una curiosità, 06 è il modo invece in cui, secondo sempre il Nouvel Observateur, ormai si chiede a qualcuno il numero di cellulare. Questo perché i numeri di cellulari cominciano con questo tipo di numerazione, e quindi al posto di dire dammi il tuo numero di cellulare si usa questo dammi il tuo 06. 06 significa appunto il numero di cellulare. Questo segnala Nouvel Observateur di questa settimana. Visto che abbiamo parlato di lavoro, vi voglio segnalare una pubblicazione che è in edicola insieme al nostro quotidiano, insieme al Sole 24 Ore in questi giorni. Lo stress da lavoro correlato. Ora non c'è nessun intento ironico, anche se siamo partiti dai ragionamenti sul referendum a Mirafiori, e quindi sicuramente un motivo di stress legato al lavoro, ma qui invece si tratta di una novità normativa molto importante che poi tocca praticamente tutti. Questa novità normativa è costituita dal fatto che i datori di lavoro, senza praticamente eccezioni, devono preoccuparsi da quest'anno di andare a misurare quali possono essere i fattori di stress appunto legati all'attività lavorativa. Ve lo segnalo anche perché, con un puro spirito di servizio, questo obbligo viaggia da un po' di tempo, da un paio d'anni diciamo, ma è sempre stato rinviato. Solo da questo gennaio si è deciso di dargli finalmente corso. Naturalmente la disciplina è assolutamente nuova, quindi si tratta anche di andarla a conoscere e vederla funzionare quasi dal nulla, non abbiamo precedenti in materia. Per questo allora il Sole 24 Ore vi propone questo volume, questa guida alle novità appunto sullo stress lavoro correlato. È importante, ripeto, che tenere presente che questo tipo di obbligo non ha di fatto delle grandi eccezioni, anzi verrebbe da dire che non ne ha affatto. E all'interno di questa guida ci sono delle risposte alle domande più frequenti in materia, dove appunto si ricava che l'obbligo della valutazione degli stress da lavoro riguarda i datori di lavoro di tutte le imprese e gli enti pubblici e privati, anche se non svolgono attività commerciale, purché però impieghino lavoratori subordinati, soci lavoratori o associati in partecipazione. Questi obblighi sono in vigore dal 31 dicembre scorso, quindi insomma da quest'anno sono entrati in vigore. Come diciamo esclusione notevole che mi permetto di segnalarvi, ma ripeto è una delle poche, chi occupa solo collaboratori familiari non fa questo tipo di valutazione, ma ad esempio i titolari degli studi professionali sono tenuti a effettuare la valutazione dello stress da lavoro correlato se utilizzano lavoratori ed equiparati. In edicola, ripeto, con il Sole 24 Ore in questi giorni. Allora, chiudiamo un po' il cerchio con le questioni di lavoro segnalando una guida che trovate su Famiglia Cristiana. Con quest'anno sono cambiate anche diverse regole che riguardano le pensioni. Ne parliamo molto anche sul Sole 24 Ore, ne parla Famiglia Cristiana questa settimana con un dossier, un inserto speciale che trovate all'interno, spiega tutte le novità. Io vi segnalo, perdonerete l'intrusione un po' aziendale, sul nostro sito www.ilsole24ore.com. Sono sempre a disposizione gli articoli con tutte le novità e anche un calcolatore che permette appunto di stimare qual è la data di ritiro, la data attesa per la propria pensione dopo questo cambio di regole. Tra l'altro, una delle novità maggiori, forse l'avete sentito, se siete vicini poi all'età del ritiro, probabilmente ve ne siete anche preoccupati, è lo spostamento delle cosiddette finestre, cioè il momento in cui si può materialmente andare in pensione e che è distinto e si è allontanato significativamente dal momento in cui si compiono i requisiti necessari per andare in pensione. Tutto questo lo trovate su Famiglia Cristiana, lo spiega Famiglia Cristiana in questo dossier dedicato appunto alle novità delle pensioni di quest'anno. Con questa segnalazione dedicata al lavoro chiudiamo questa puntata di oggi. Abbiamo parlato davvero molto di lavoro, cercheremo di parlare di tempo libero domani nella nostra puntata domenicale. Io ringrazio Paolo Corleoni che questa mattina mi ha assistito in regia, grazie di nuovo ad Anita Panizza che mi aiuta a preparare questo programma. Vi ricordo, se volete risentire questo programma così come tutti i programmi di Radio 24 o avere anche delle informazioni sulle nostre frequenze, sui conduttori, sui nostri programmi, potete consultare il nostro sito www.radio24.it, trovate tutte le informazioni che vi servono. Magazine 24 ritorna domani mattina alla stessa ora.